molto pericolosa se disturbano le radio aeree. Infatti. Anche perché poi dopo l'altezza, sai, si sente tutto, Si sente tutto. Quando volano 8.000 metri di quota, a voglia. Non hanno bisogno di traliccio. No, c'hanno. No, non hanno bisogno, quelli atterraggi ce l'hanno mala sorte. Ma gli aerei hanno l'antenna, dunque dovrebbe essere nell'alettone di coda, nella coda proprio, no? C'hanno l'antenna, è molto complessa perché è progettata in base al tipo d'aereo. E sono, è un'antenna multibanda, hanno dei sistemi di accordo automatici. Insomma vanno abbastanza bene, hanno spesso delle forme tipo lobo, tipo circolare, no? Una cosa del genere, perché prendono un po' la forma degli alettoni di coda. Diciamo che sono cose che non puoi disturbare, c'è poco da fare. Ce ne sono tanti che entrano. Io per dire, mi ricordo che acquistai un apparecchio, un Galaxy su eBay, e l'ho subito dato perché c'aveva la scheda dei 45 metri, non l'ho più voluto. E questi chi sono? Canali devono essere. Atento mio hermano della Scusia la Sardinia, adelante ve lo comprendido per favor. Vamos a ver mi hermano, si escuchi la città del Sassari che te va chiamando. Una propagazione di passaggio. È il cosiddetto strato di propagazione. Sì. Poco fa stavo parlando con le tele-if. Evidentemente c'è propagazione da quelle cose. Magari noi ci siamo furti allora e loro non ci sentono. Ma io già lo sentivo, vabbè, era in direttiva a una 5 elementi a quanto mi ha detto. 100 watt di uscita, una direttiva 5 elementi. Dico, la direttiva puntata verso la Sardegna arrivava da Santiago 7 a Santiago 9. Con quella, anche se poi si perde un po' con la polarizzazione, se la metti in orizzontale è un po' perde qualcosa. Va bene con chi è la stazione orizzontale, e allora sì. Ma che non se la mette in verticale, anche se è un po' inusuale, però. Appagato, ma anche col dipolo, se fai un buon dipolo, pompa. Beh, sempre meno della verticale comunque, perché il dipolo è, diciamo, è un quarto d'onda, non va molto lontano, è molto più efficiente di un'antenna di macchina, su quello non si piove, però rispetto a, che ne so, una Mantova 1 ne ha di pane da mangiare. Vabbè, io ho sentito gente che con i puli, vabbè, però in HF faceva dei collegamenti con l'estero e cose, e arrivavano un bel furti. Sì, ma di lì è un discorso un po' diverso, È diverso perché dipende sia dalla frequenza, sia dal fatto se il pole è caricato o meno, sia se è un quarto d'onda, se è 5 ottavi, se è un mezz'onda, l'altezza a cui viene messo, perché tipo si cambia dal giorno alla notte, se non è metti alto 5 metri va benissimo per la ricezione, ma diventa una ciofeca in trasmissione. E ce ne sono tante di cose da tenere presenti, sai, l'antenna perfetta è un po' difficile da trovare, non esiste. La regola di norma è che più in alta è, più in alto sta è meglio è. Ecco, mentre ti ascoltavo stavo pensando a chi poteva somigliare la tua voce, adesso ho capito, a Vittorio Giovine. Cappa. No, ma io non urlo, dai. quella sta sempre a strillare. Poi fa dei passaggi che, mamma mia, le dico sempre, fa come due. È molto apparlantina, Vittorio. Avanti, Pierpa. Pierpa si è ritirato. Avanti, Antonio. Ciao. Ah, c'ho ragione io, che l'antenna verticale spinge di più di un dipolo. Sì, in verticale 50 avi, Qua. Per intenderci, Mantova 1, Sigma, quelle lunghe, cioè di 7 metri, dai, sotto Asturi. Sicuramente spinge di più, però attenzione, non è detto che riceva meglio, Stiamo parlando di trasmissione, la ricezione è un'altra cosa. Poi comunque la verticale, diciamo, per questa banda distribuisce un po' da tutte le parti, da il segnale è forte. Il detto è, dunque, la verticale lavorando praticamente con bassi angoli è l'ideale per i DX, però ovviamente un dipolo orizzontale riceve molta meno spazzatura di quella che riceve una verticale. Le verticali è molto tutta la spazzatura che c'è in aria sulla tirano dietro, quindi QRM, scariche, scarichette, chi fino a fine metta, e questo lo riceve a 360 gradi, mentre poi c'è il dipolo, magari può ricevere male, ma riceve male da una sola direzione, dalle altre riceve bene. Vabbè, c'è il pro e il contro. È un'altra direzionale quella, non è che sia... Dove la direzione diceva bene, dalle altre parti che diceva più male. Ma basta motorizzarlo, anche il dipolo, e una volta che è motorizzato lo giri dove vuoi. Quello è il dipolo rotativo. Cappagatto. Già mi hai passato a Gianfranco. Io? Ma sono proprio molto forte qua nella mia postazione. Magari lui è anche basso di watt. Beh, forse sì. No, allora, dunque, questa l'antenna è l'antenna più che sta più in alto, però è anche l'antenna. È più o meno identica all'altra. L'altra però, siccome è più corta, rende molto meglio il 27, quella che stavo usando con l'altro apparato che è acceso, ugualmente acceso. Questa è l'altra antenna, quella alta, questa va farà per tutto, basta premere il pulsantino e farà per tutto. Sono entrambi autocostruite e sono entrambi verticali. Ho capito. Questa, siccome è più lunga di 7 metri, rende di meno qua. Non c'è la Mantova? Cosa c'è? Antenna 10-11 metri, già. Dunque, se la Mantova ce l'ho, la Mantova 1, però è smontata. Sul tetto c'ho un'antenna autocostruita con un balon, che è questa che sto usando, ed è alta circa 8 metri e qualcosa, e fa tutto, va da, per intenderci, da 1,6 a riuscire anche a fare qualcosa in 50 mega, quindi è il massimo della banda ottenibile, ovviamente sempre con un asilo all'accordatore eccetera, però va dappertutto in pratica. L'altra che c'è a fianco si comporta molto bene in 27 ed arriva fino intorno alla banda, diciamo, nuova dei 10 mega eccetera, e anche quella va bene, però è molto ma molto più bassa, però in 27 è molto molto più forte perché è più piccola come antenna. Sono entrambi autocostruite. Ma la musica sia quel kind of pop, reggae, blues, non sento niente. Lo sto dicendo che quando parla lui sento questa musica qui, io non lo so, aspettate, questa macchina sta un po' di tempo, vediamo se lo sento anche col chievolo, magari è apparecchio mio, vedete, ma lo faccio a lui, a te no. Aspetta lì un attimino, ma lo senti fatta? Non so, ho sentito musica araba, ma quello è genere, solo quando parli tu. È solo tu. La parecchia, il secondo, ma è stato il numero mio, cosa vuoi dire? Niente, aspetta che stacco, guarda. Aspetta un attimino, prima dimmi se fai oppure la senti sott'acqua. Allora, prova. Senti se l'avevi. Sento, mira, non ci ho registrato, non stavo registrato. Prendersi, no? Io non sento niente, raga. Non sento nulla, la modulazione è pulita quella di Antonio. Io non sento niente. Evidentemente qualche musica che si porti, ti porti appresso, proprio di giovedì. Ma cosa? Stai cambiando antenna? Cioè hai cambiato l'antenna? Cambio palattino, secondo me? Sì, mi sono messo sempre un attimo. Non so, sai, che musica è. Aspetta un attimo. Il posizionamento. Tu intendi la musica, ma perché è musichiere lui, ma io musica non ne sento, no, neanche io liscio come lui, no, non ne sento sottofondo di musica. Ma non è che abiti un bel di latine, non sono malissimo. No, l'ho detto. E tu dici si fingute in vita Rudappo e dopodiché gli fa bruciare di stomaco gli dalla testa. Niente da dire, no, non ci sarà così, ho avuto una cosetta qua. No, ma questa musica non capito dove la sente Antonello. Siamo vicini, non sento musica. Prova a cambiare baracchino Antonello, sia che su baracchino che vai e ti l'ha dato magari anche il musicista. Oh, è dall'Oriente, intendi. Invece di accendere il baracchino ha acceso la radio del bagno. Aspetta, schiaccia un attimo, sul cable adesso. Dimmi sul cable, ma le presentano o no? Schiaccia senza parlare. Allora, col cable tu sei leggermente fuori frequenza invece. Sì, 27.077. Perché c'hai un sibilo quando parli. C'è un sibilo, allora tu la devi smettere, io te l'avevo detto, non li mangiare quei tramezzini, mica sono mezzo quasi. C'hai ragione tu. Prova la 27.087, là. Come lo senti tu? Vabbè, vabbè, non sei col cable adesso. Attacca il cable, vediamo tutti. Se 200 e lo sento centrato, adesso commutati e ti provo ad ascoltare col chiodo, vediamo, parato 1 2 3 1 2 3 1 2 3, prova microfono a static 27.076.80, ragione Antonello, è leggermente ascoltato con la radio. Non lo so se ti sta facendo rientro il microfono, comunque non sei perfettamente di sonda, sì, io ti ascolto bene, a 27.076.80, capito? Mentre invece siamo a 27.075. Ma con quello normale, guarda un po'. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, prova microfono. Sì, sì, 27.075 da me, attento, No, è leggermente svoltata ancora, è l'apparecchio qua, è proprio l'apparecchio che crea i problemi, solo che con il microfono normale lo sentiamo meglio, perché guardate che siccome c'è i toni alti, si nota di più. E la modulazione della disegnare è leggermente più bassa. Io qualche volta addirittura risentivo questa musichetta araba sotto, sentivo questo fruscio basso col coso, con questa musichetta. E tutto mi sembrava di essere con il FM500S, non con il FM500S, con il pace 126 di Maria addirittura, per quello pigliava un sacco di mondezza. Aspetta il telefono. La musica dell'esercizio era Pucci. Cloco. Questa musica era di Argento, ma non è che ti piace vedere il culo a me. Con quello normale comunque sono centrato, mi senti bene. Mano, ho girato quei trimmer, sono tutti cagati, già vanno bene così, sono da combattimento, dopo, cioè sono baracchini che costano 60 euro, una volta che non funzionano più e gli sbatti in terra. Scusate un attimo, vi va bene. vicino al TH piccolino, piccolino. D'accordo, d'accordo. TH piccolino, piccolino. Vabbè. Ho capito. Va bene, perché? Mi raccomando, fai centro. Fai centro, altrimenti è un casino. Antonio, come mai sei così disperato? Prima non attacchi l'altra radio. Faccio centro. Già faccio centro. Ma dice che entrate in un bagno per affitto. Non dico di farla dentro, ma almeno fate centro. Voi ci vuole altro centro, centro. Ah, centrare un combo. Ehi, ehi, scusate, la riprendo subito. Quella del 20 dove hai trovato scritto tu quella cosa, quel bar, un foglio grande era. Basta fare come Alessio che si siede, già va bene. Non c'è ancora una foto, mi dispiace per te. Prima gli altri. Ma no, non sai cosa aveva scritto via Pasquale Antonio. Ciao, non via Pasquale, mi devi zitto, una calma era. Non dico di farla vento, ma meno di farla aspetta, non dico di farla centro, ma meno di farla vento era. E invece avevamo via Pasquale aveva scritto. Non pensate che in mano avete un idrante. Pensate che in mano di avere un idrante, non me lo ricordo, comunque è una roba di vigile del fuoco. Non mi cico di guarda l'emicidia, c'è un briciette che la fa fuori, c'era una volta quel bar che c'era, non so te lo dico di, al bar di Ponte dell'Osello, quando andavo verso le 10:30, il lago trovavi, sembrava il Suez. Ecco. Non è un lago, non vorrei dire. E vabbè, prima comunque ce l'aveva fatto tempo fa di farlo, gli avanti a Torello di Rossi. Ehi, buonasera. Buonasera, ben ascoltato Antonello. Il microfono. Buonasera a lei, Don Lello. E ti stavo dicendo comunque, Ocla, la cosa bella, vedi, se avessimo finalmente cambiato frequenza, nel senso che se la banda cittadina, come speravano, si fosse trasferita sui 43 MHz, le antenne sarebbero state sicuramente più agevoli, più piccole. Belli alla grande, alla grande, ma non hanno molta, come si dice, distanza, sono radio così giusto per l'emergenza, io spero non lo faccia, ma altrimenti sarebbe un disastro, con tutte le nostre potenze, con tutte le nostre cose a passare ai 43, speriamo di no, avanti Ossi, mandi garage. Ho ripreso, Mandigaro è buffato puro. Mandigaro è? Mandigaro è buffato. L'ho ripreso. E ho capito perché. Muto, oggi è stato me. No, mangiate, non sei brutto. Ecco, cazzo. Mangiate, bevuto. Non riesci a capire perché sono rientrato. Riprendi perché. Ho detto, sono rientrato. Ma non la capito lui però, hai capito Claudio? Non è questa facilità, lui non l'ha atterrato bene, hai capito? Comunque buonasera a tutti, non so neanche che ci sia a ruota, salutando a tutti quanti. Ci sono io, Antonello Alessio, Antonio Falchetto, Antonio Grode e Antonello Valosci, vai tu per chi vuoi cambio. Positivo, no? Antonello Diussi l'ho già ascoltato, adesso che ha mangiato e bevuto io gli ho detto andare a sicoccare. Chita ancora. Comunque adesso possiamo battezzare un asino. Perché ce ne sono tre di Antonio. Di Antonetti, Antonio e Antonio. E perciò quanto? Cosa avete organizzato Antonio? Dovete sapere che il nome Antos viene dal greco e significa fiore. Quindi Antonello è fiorellino. E beh, perciò quanto organizzato avete? Ho capito. E perciò quanto avete organizzato? Antonello mi ha passato ancora Simona, se mi fa parlare con Simona magari riusciamo a organizzare, passami Simona. Allora tedesco io cosa? Sotto sabato ci vediamo qui, andiamo tutti e tre e ci organizziamo, prendiamo quello che dobbiamo prendere per domenica, problemi non ce ne stanno. Io voglio parlare con Simona per capire che se si è calmata o meno, perché sennò mi cuda a ciaffi. Esagerato, non è così cattivo, già sai qualcuno già ti butta fuori dalla porta, no? Non è così, no? Portano dalla finestra. Tranquillo, tranquillo, non siamo a essere invecchio qua, no? Adesso se invecchio purtroppo li costretto a fare una cosa del genere. Se ti vuoi far rispettare, facci il culo di durare, diceva quello. Sì. Via, pronto. Sei così basso Gigi? Perché siamo entrambi tutti e due bassi Anto. Non lo so come mai, ma mi stai arrivando molto basso oggi. Adesso ti ascolto molto rispetto a tutti gli altri, molto basso. E tra le posizioni cosa c'è? Non so cosa stai adoperando tu, capito? Io sempre un paracchino c'ho qua con 4 watt. 4 watt non va di più questo, ho provato a sollevarlo, è tutto un manettone 4 watt. E così lo lascerò. Io non sono un 4 watt, però c'ho la radio. Un paracchino. Io sto arrivando basso di radio e Santiago. Io ho 4 watt, però c'ho il microfono di tavola. Il microfono di tavola c'hai? No, io ce l'ho di quello per mano. No, questo di tavola. Di tavola? Quello di tavola va meglio, capito? È uno di così a Sassari. Adesso che microfono stai usando? Il microfono di tavola. È positivo, poi provate che sia di tavola, fatta di legno. Magari. Io ce l'ha fatto di legno, Tu da loro non ce l'ha fatto di legno. È positivo. Cucciarata, ha giocato la vacchetta. Non invitate mai a Luigi Vulcano a mangiare gelato e a mangiare anguria, perché conviene che fate un abito. Sapete che mangio questa roba io, guarda già fittito, capito? Nonostante, visto là, nonostante non stavo tanto bene, Claudie, il giorno che ho mangiato molto più di te, nonostante che non stavo bene, che ti avevo lo stomaco così. Io ho mangiato poco, la verità, però ho gustato tutto. Ho mangiato poco e ho gustato tutto, poi ho sempre così. E quindi però siamo stati benissimo. No, ma tu fai veramente paura mangiando gelato. Io ti ho visto una domenica mattina per fare una scheda d'estate, mi sembra l'anno scorso, ti dai maniera tutta. E tu non hai visto mangiare di pettine di cavallo? Ti sto dicendo che mi sono spaventato pure io, eravamo io, miei figli, mio, un altro amico più maturo, Gruccio, che Roberto, non già conosce Falchetto, Roberto vuole faceva l'autista e lavorava insieme a Pierpaolo. Ma io si è pensato, vabbè, c'erano mie nuore, i miei nipotini, noi eravamo, mia moglie. Una noce, non mi ha dato quasi chili, ma da fare che chili, non voglio sbagliare, se non c'era 10 chili poco ci mancava questa noce. L'ho fatta, l'ho tolta la frigge, l'ho fatta con la fettatrice che ho, quella grande lì, sono una fettatrice che ho, la ci ho fatta tagliando, sbagliare le cose di lenzuola sembrava, e le ho tutte con me, le ho fatto due lavamani grossi, due lavamani le ho fatte. No, questa cosa si è affissata, che mamma ha dato gliela fritte. E ha dato davvero, ma detto, la mamma ce lo facciamo pure, se riusciamo tra uno e l'altro, teniamo tutti e come ce lo rimangiamo. Claudie, attacca questa che la bigliamanna che conosci tu. Ma è come se lo prima la mano. E c'erano spianate, il pane c'è proprio spianate, proprio di chi si fa di cose, di nuvito. E facciamo un tanto della vettina, dello cavallo e mezza la pianata, un tanto. Poi avevamo fatto lo primo lavamano, avevo pigliato lo secondo, poi tutti ce l'avevamo mangiato, non è rimasto una, una cosa vuol dire una non è rimasta. Come ma la carica non una tiravata, è quindi normale che sia così. È normalissimo, ma gelato vuole masticato forte. Facciamo girare, Antonello Dio si riprendi. Antonello. In 2 secondi sta arrivando, vai. Va bene, siamo qua. Antonello Bocconio. E comunque il gelato mi ha ghiacciato un po', un rigetto, la verità. E l'altra volta ho mangiato questo bicchiere e sono partito subito in bagno. E mi ha toccato bandiera di quelle sul gelato. Fabio sta bollendo un po' sul gelato e subito sono andato al coso, non ce la facevo più. Non con il stomaco. Non sono abituato. Io anche la birra per congelata. La birra piano piano, quella che c'è in frizz. Sono fatto così. Saluto con lo stomaco a me. Ma cosa fate? Ma guarda, non l'ha fatto, ma mi tocca lo stomaco, mi fa come c'è un chiodo, venga. Cappa. Dipende da stomaco a stomaco, cosa è vero. Certo che fa male a vita a mangiarsi tanto di quel gelato che è pesante. Ma non è vero per me, se torna più settimana intera senza mangiare, ma a volte quando capita così non mi piace la roba fresca, e quando ce l'ho fatto poi lo mangio, quello è il problema, e quando ce l'ho fatto lo mangio. E così è l'anguria stesso. Non tanto, adesso poco fa ho tagliato il melone, ma ne ho mangiato solo due fette. Mi hanno mangiato due feste, no, ieri non se l'ho fissato di tagliarlo, se no può andarsi lì che lo mangio. Mi hanno mangiato due feste, se lo rimetto in frigo. L'ho tagliato due feste, me ne sono mangiato più di e non ne ho mangiato di più. No, non è che sto mangio il gelato, mi piace la carne, mi piace la cosa. Il problema è io, carne di cavallo, il dottore mi ha detto di mangiarne. Infatti io non la mangio spesso, la mangio una volta ogni tanto, però fa tutto l'anno, hai compreso? Chi se ne vive? Ehi, ehi, vai qua. Il salsiccio di bocca c'è Claudio mio, e per me si mangia la salsiccia quella come l'onfio. Ma c'è proprio in compagnia in passata di raggio affettandomi, non mandare a Claudio la rebo fumatura, Se io non andrei fuori la più pesante di un gelato. Ma giù mi ha detto un dice che mi sono cucucato, ma è accettato una tutto con la macchina, perché sono sicuro che la musichetta, perché hai detto che fuori frequenza. Quando fa il pubblico lo facciamo una volta tra, così fatto lì, mi piace 5.23, secondo il microfono lo fermo, senti la musichetta strana, la verità. Non c'è come andare a fare che non l'ho mai fatto, ecco perché me la sono accorto subito, col 2009 me la abito subito, proprio che era leggermente fuori i 2 kHz. Ce n'è uno grande lì vicino a siamo dei casini come Zomis, ma abbiamo pergolato a 2 km, ma lo sono integrato. Fanno l'uva e la prendono pure, la portano l'uva, mi pare Santa Maria la qua, un sacco di parte. Va bene Gianfranco. Gianfranco non è andato in pensione col Massimo, credo. Mi è andato in pensione qualche anno prima, sarà riscattato. All'idrovia di Valle Bieco. Si è riscattato tutto e si è andato in pensione. Questo è quello che mi ha detto a me. Capito? Grande Gianfranco. Conosco. Gianfranco del Conte, signor Risata di Badia. Ai tempi di Antonio Giuseppe, chissà se sta ascoltando, Antonio Giuseppe di Sosso, ci piace di fare a me. Allora, vediamo, ultima chiamata per Antonio il Grode, il grande mattone, dove sei? Scusa, cosa sta partendo il treno? Sentitemi un attimino invece, passando il palo in frasca. Cioè ancora, secondo me il cardinale mi ha attaccato la lingua al palazzo. Comunque, stavo dicendo, aiutatemi, datemi un consiglio in merito a come organizzare il mercatino dell'usato dell'associazione, che sarà calendarizzato alla fine di questo mese. Soprattutto, avete apparati o antenne usate? Apparati o antenne usate? Io non ho un problema che posso mettere a disposizione tante radio, baracchini di età dell'era che furono a quella moderna, ma il mio problema è quello che poi vanno in mano persone che non devono andare e mi si girano i più ministri. Se avete o se conoscete qualcuno che si vuole liberare di apparati, sappiate che iniziamo a calendarizzare, cioè la cosa è già calendarizzata e sarà per la fine del mese, i primi di settembre, e sarà in concomitanza, cioè sarà alla fine del mese perché sarà in concomitanza col mercatino dell'antiquariato che c'è in piazza Altuni. Se conoscete qualcuno che mi contatti, perché così riusciamo a vedere un attimino cosa c'hanno come apparato e a dargli un prezzo, in modo tale che poi arriviamo lì, ci sarà l'esposizione con il prezzo, oppure se c'è la possibilità di scambiarli, il proprietario deve essere presente. Tanto sul sito bisogna informare, un'informativa via PC mettiamo. E così si ricevono i contatti, l'unica cosa è quella, perché ad altri livelli non ci sono alternative, cosa fare? Usciamo a Sassari come usciva Antonio Rito a Porto Torres e andiamo al ballo. Negativo, però sei meglio di me che il passaparola serve, poi usciamo sicuramente con un altro articolo sul giornale e allo stesso tempo apriremo un sito, non una pagina Facebook, proprio un sito dell'associazione stessa. Però ci sono dubbi su quello, ne abbiamo già parlato, però io in titolo informativo posso anche mettere qualcosa su modulatore di puro sangue, sul nostro, anche su Facebook, perché metto due fesserie lì. E poi vedo un po' di contattare qualcuno, anche delle altre varie sezioni, eccetera. Ti faccio sapere, dai, mi metto in movimento e ti faccio sapere. Sono entrato. Tanto mai quanto ce l'ho fatto, me. Scusa, volevo dire, ma non è troppo tardi per, diciamo, per cercare apparati adesso? Non è che ci vogliono così tanti giorni a fine mese? Neanche a trovare la cosa, poi calendarizzare vuol dire che orientativamente lo faremo a fine mese, parte dal presupposto che quel tipo di come si dice di mercatino sia esclusivamente a fine mese, se non sbaglio è l'ultima domenica di ogni mese. Antonè? Sì? Se non ci abbiamo radio, non buttate via niente, scaldabagni, sedie vecchie, capito, tavolini, busadocci, portiamo tutto. Va bene. Ah, io così almeno non tiriamo più sull'associazione. Te la posso fare una domanda, Cla, se non ti dispiace? Dimmi, altro che non mi dispiace, lo sai. Ma ci sei tu? se ci sei tu va bene, avanti gli altri, dai. Ma ci sei tu per l'associazione sempre, intendo quello lì. Eia, già ci sono sempre io. Già non mi hai perso, non ti preoccupare. A posto, dai, andate avanti. Grave. Faccio ci sarà potrebbe andare, lo sai dove? Nella birreria che c'è a fianco a Piazza Dola, prendersi una pinta, lo sai come ci scende. No, no, quello che ho mangiato va bene, non lo cambio con la pizza stanotte, va bene così, tanto mai più tardi me ne vorrei prendere nuovamente un'altra pastiglia, ne ho preso, cioè mezza, che ne ho preso mezza a pranzo, e poi l'ho presa alle 5 a pranzo, e l'altro lo prendo stanotte prima di coricarmi, ho passato alle 6 ore, e alle 11, 11 e mezza l'ho presa. Dall'ardire, ma la favela forse non ho portato avanti. Ho detto birra, non pinta. Birra è? Non è pinta di birra, sai quanto ci sta bene adesso? Ma c'è anche il vulcano. Sono sempre io, l'ascolto, sto. Sei sempre da parte, io tu a che quanto pare, ma ogni tanto. Tocca a te, dai. Ma io se dico la mia, poi la mia fa male, capito? E allora mi sto in silenzio, capito? Se io dico la mia adesso, in questo momento, faccio male, allora io rimango in silenzio e ascolto. Perché? Perché? Perché? Perché? Se io dico la mia, quello che penso io, fa male, capito? Fa molto, molto male. È meglio che si rimanga in ascolto, capito? Su che cosa, Vulca? Sulla pizza o sul mercantino? No, sul mercantino è una cosa giusta, cosa giustissima, capito? Sui CB che non penso che si riesca a mettergli d'accordo, ma manco molto ci credo io. Dove? Dove lui? Io ho già parlato di queste cose con te. Però penso che con insomma con quelle persone giuste, non dico tutte, confrontarci tutti sarebbe, non ci credo neanche io, però quelle persone insomma favorevoli, perché no, dalle spazie. Dall'ambulanza passata. Ti dico, sono molto pochi, quelli sinceri, sono pochissimi, Claudia, tu lo sai benissimo, sono pochi, perché si è parlato di eliminare in base, ne rimangono pochissimi, capito, ne rimangono pochissimi, Claudia, capito, io mi auguro che tutto vada meglio delle cose, però... Visto in tutti questi anni, sto vedendo quello che succede, il comportamento che hanno le persone sulla 27, ecco perché non sono fiducioso. No, questo da lì non mi togli. Mi dispiace perché l'ho detto, se dico la mia puoi far male, ma purtroppo la penso così, io la penso proprio così. Riuscirai? Sì. 4, 5, 6, 7, ma non vai oltre. Allora, una scommessa. Io ti dico che questa associazione al 30 di ottobre avrà già 50 iscritti. Non sono solo di Sassari o GG, attento. Ma non ce n'è in giro, cavolo! Non ce n'è in giro, Claudio, ma lo puoi capire che non ce n'è? Se non ce n'è in giro che modula sulla, diciamo che parla sui canali normali così, non ne trovi gente in giro, capito? Non ce n'è più, capito Claudio? Sono rimasti pochissimi, hai capito? Qualcuno ne è rimasto nei paesi e sono passati, chi c'è il fatto in filo e sono radioamatori. Cosa tu fai, vai finito, è passato radioamatore e quello di Terralba non so che fine abbia fatto, di Bonnannaro o di Invie, quello di Bonnannaro, Fabio, non si sa che fine abbia fatto. Capito, non è che sono, che ci sia tutta questa, se di fuori dove vuoi arrivare fuori, allargati verso Cagliari, ma non ce n'è neanche lì più. No, scusa tu. No, guarda, io ho 4-5 agganci della zona di Pinocetto, Mozzieri, Tula. c'è. Dico per me o per dire altri camionisti, altri tuoi colleghi, capito? Vulcano. Fogliato, dico. Ascolta, io volevo dire, ma alla fine a te non dispiace che la situazione sta morendo, a parte gli scherzi, non ti dispiace a te? L'associazione non sta morendo, l'associazione sta nascendo ancora. La 27 sta morendo, la 27, non l'associazione. Esatto, diciamo la 27, da parte tua non ti dispiace che sta morendo? Anzi, è in agonia, non ti dispiace questo? E se dispiace, perché non pensare positivo e provarci anche tu con la tua esperienza? No, guarda, con la mia esperienza mi ha trovato sempre un zangomaro io, bravo, misera 26, forse non hai capito. Sempre, ho avuto sempre che bisticciare, sempre, io non entravo mai su questi canali, io me ne stavo sul 45 con gli amici miei. Me ne stavo sul 45 e non entravo mai, guarda, non c'era, e questo c'è Claudio, te lo può confermare Claudio, questo c'è Claudio presente, questo lo può confermare, non ce n'era uno di stazione qua a Sassere che andava nel canale 45, io non ne ho mai sentito uno, sono stato io così con questi baracchini a trascinarmi lì dietro, a uno, a Luca, a tutti, a Luca del Monte, piano piano tutti quanti. Però non ce n'era uno che entrava su, andava su tutti gli altri canali, però non ci andavano mai a curiosare sopra il 45. Questo c'è Claudio qua e Claudio te lo può confermare. Claudio, se sto dicendo una bugia io posso. Scusate un attimo, volevo dire una... cioè voglio dire questo, Antonello Barracuda, guarda che Gigino Vulcano sta partecipando più di quanto lui creda alla vita dell'associazione, perché nel momento in cui ti metti in guardia con apparente pessimismo, ti sta facendo evitare di fare determinati errori. Quindi io apprezzo assolutamente la sua opera, che forse è quello che ci crede di più nella 27, e gli dispiace che le cose vadano male, quindi assolutamente. E quindi lui sta facendo la sua parte. Claudio farà la sua, perché un'altra cosa che istituiremo, un'altra cosa che dobbiamo calendarizzare appena aprono le scuole, è che nelle scuole superiori un minimo di pubblicità la facciamo, per far entrare anche un attimino, far appassionare i giovani, e qualche lezione all'interno di quando avremo la sede dell'associazione la faremo, e lui sarà uno dei docenti. Quindi attenzione, ognuno, io ce l'ho già un progetto, non sto per campare, cioè non è una cosa campata in aria, quindi attenzione. È positivo, perché io ne ho molte, io ne conosco parecchie, io conosco un'infinità, però io ce l'ho tutti nel 45, capito? Se io alzo un dito sul 45, non ce n'è nulla per fare un gol, sul 45 parliamo però, sul canale 45, io sono conosciuto da tutti, sul 45, capisci? Lorenzo, Claudio lo sa, lo sanno molto di stazione, io vado a Borgomanero, ci riuniamo, conosco un casino in verticale, quando ci siamo lì siamo oltre 400, ma non ci sono solamente quelli del 45, ci sono anche i radioamatori, ci sono questi che fanno modifica baracchini, li risparano, fanno lineare, ricostruiscono un'antenna, costruttori di antenne, di tutto c'è lì, di tutto, c'è Sabattino, questo che fa costruisce antenne, baracchini, li vende, c'hanno i grandi negozi, quello c'è a Borgomanero, quello partecipa a questa festa, è organizzata, questa festa è organizzata da Pippo Apollo, carissimo amico mio, io un anno sono stato anche, mi ha invitato a casa sua lì a Novara, per la festa, sono andato a casa sua insieme a Tommaso Civa e Peppe Caffettiere, Giovanni Loro Originale, eravamo invitati ospiti d'onore, noi siamo quando andiamo lì siamo proprio gli ospiti d'onore, quando vado lì io a Borgomanero, capito? Lui è qua dalla Sardegna, siamo proprio gli ospiti d'onore e ne conosco tutti, capito? Ne conosco tutti, tutto quel giro, tutta la Sardegna, li conosco tutti, capito? Infatti ne ha avuto modo anche di quando siamo andati lì, che Claudio ha visto, sono tutti amici che li ho riuniti in giro di 2 settimane, per fare una festa, faccio un pranzo assieme. È tutta gente che mi conosce, capito? Che conosco, capito? Anto. Però non lo so, quello è tutto. Non lo so, capito? È giusto, tu hai detto giusto, è una cosa perché ho avuto modo in tanti anni di ho avuto tante di quelle esperienze con questi di stazione fissa che tu neanche te lo immagini, tu. Scusa Luca, ti volevo dire, ma alla fine, sinceramente, noi che siamo qua sul canale 10, per amare, secondo te siamo delle persone fidate su cui puoi contare? Aspetta. Una cosa volevo dire, comunque, scusami Antonello se ti interrompo, la veemenza con cui si esprime comunque Vulcano, si sente che la cosa la sente, che è un appassionato e che anzi gli è dispiaciuto poi alla fine che le cose in altre situazioni non siano mai andate in porto. Quindi assolutamente lui ci crede, secondo me è retorica la domanda che gli hai fatto, perché secondo me sei in questo canale sicuramente crede nella cosa e crede anche nelle persone con cui sta modulando. Avanti Vulcano. Sì, no, forse non hai capito una cosa, io a volte sono in ascolto e non entro solamente con le persone che mi fate parlare, forse non hai capito Antu, non entro con tutti a parlare, non entro con tutti, io faccio anche a volte accendo e ce lo accendo e sono in ascolto Antu. Entro con chi mi fa piacere di parlare, capito? Di questa stazione fissa, non è che parlo con tutti, non so se non è con tutti che entro a parlare io, Infatti intendevo quello, poi non so se hai detto Antonio io o Antonio Antonello da Ussi. A te stavo dicendo, io ti sono riferito a te Antonio. Antonio Rotte, capito? No, lo sto, io dico parlo così perché lo sento profondamente, è giusto, sto dicendo giusto quello, perché in tanti anni mi sono accorto, mi sono sempre. In tanti anni ho visto che non c'è tanto ma non solamente qua. Non solamente qua Antonio Brote, ma io ero stato a Cagliari, in tutti i posti che giro, Oristano, non ce ne sono più i 27, sono spariti, tutti che riconosco uno per uno, anche in Verticale, conosco a Romaldo, conosco a Luigi di Cagliari, via Roma, conosco l'altro mi sfugge il nome adesso, ne conosco Maria Campinera, ne conosco Daniela, conosco tutti, sono tutti spariti, tutti quelli che non vi dico, tutti spariti, non ci sono più in frequenza, sono spariti. Perché tu andavi sull'8, era sul canale 8, si minacciavano, si bisticciavano, se ne dicevano, ma si mucciavano, ne sentivi di tutti i colori, capito? Di tutti i colori, Antu, ecco perché te lo sto dicendo, perché se tu avessi girato come giro io, ne avresti sentito, guarda, di tutte le maniere, andando, viaggiando tutti i giorni, capito? E io ne conosco, a Marruzio ce n'è un'infinità, alla zona di Serrampa ce n'è, in stazione fissa ce n'è, a Villa Cido, a Guspini, capito? Ce n'è, li conosco quasi tutti, capito Antu? Eppure succede, stanno sempre a bisticciare, infatti sono spariti, non ce n'è più neanche uno, a Cagliari tu, in stazione fissa, non ce n'è rimasto più neanche uno. È vero anche che, sai, è un po' come succede con la macchina, quando tu ti senti protetto da una scatola di metallo, sei solito avere un certo tipo di atteggiamento, che è un attimino più aggressivo, al pari di quando sei al baracchino, perché c'è un filo comunque che ci unisce, anzi, c'è un'onda radio che ci unisce. Nel momento in cui invece ti associ, meno male, fai delle riunioni associative, ti dovrai trovare nella condizione queste persone di trovartele di fronte. E io credo che quando si è di fronte, cioè in verticale come diciamo qua, le cose sono già diverse, i toni si abbassano e si risolvono in altra maniera. Quindi secondo me l'associazione o l'associarsi o l'incontrarsi ha anche un suo perché, diciamo. E secondo me alla fine le cose si risolveranno anche in maniera diversa, come più di una volta ha prospettato Pomponio. Non lo so, io perché giro parecchio e sarà perché viaggio parecchio e queste cose non è che le ho sentite, le ascolto solo qua, le sento lì a Cagliari, ti dico a Cagliari ce n'era, erano tutti amici, quando mi sentivano arrivare che passavo tutti, dico la verità, poi tra di loro bisticciavano, come succede qua, bisticciavano, ma te ne siamo tutti colori, guarda, cose pesanti, veramente pesanti, capito? Cose pesanti. Mi è capitato da poco, non da molto, in mezzo, mi è capitato così, uno è entrato a salutare a me, l'altro è entrato a salutare a me ed erano in tre. A un certo punto, non so cosa sia successo, e mi ci hanno messo, ed io mi sono trovato in mezzo, ha iniziato a bisticciare tra di loro, e ho detto ragazzi, a me si sono minacciati, che andavano, quello con la pistola, quello così, guarda, ti sto dicendo cose brutte veramente da poco, ed erano amici, gente che conosco in verticale, capito? E gli ho detto, ho detto io mi dissocio, non mi interessa, mi chiami con tu, e questo era Daniele Primola, Claudio, senza andare molto lontano, era Daniele Primola da Villa Cidro e quelli da Cagliari, cazzo, si sono detti tutti quelli, sono minacciati, ma di brutto, io mi sono trovato in mezzo, ho detto no, io sono amico di uno, amico dell'altro, a me, per piacere, aggiustatevi, e ho chiuso tutto qua. Infatti è un onore modulare con te per come sei e per come vieni considerato dagli altri, tanto è vero che io non ho capito perché non attacchi il camion al chiodo e ti candidi, perché secondo me, guarda, se è vero come è vero che bastano 400 voti per diventare consigliere provinciale ma anche regionale, tu non hai problemi, capito, per la stima che ho sentito che le persone hanno nei tuoi confronti, quindi io ci tengo e a me fanno piacere i tuoi consigli, anche se apparentemente pessimistici, però allo stesso tempo ti ripeto, è un onore per me il fatto che tu stia in questa ruota, perché evidentemente hai visto in noi delle persone serie con cui si può modulare. Qualcuno ha detto pure che in Sardegna, attenzione, in Sardegna sono più conosciuto di Cappellacci, qualcuno ha detto così, ma scherzando però Scherzando, però se il giorno che ti candidi vedrai che, te l'ho detto, metti il camion in parcheggio. Ah no, non ci pensare proprio che io non mi candido proprio, io mi posso fare parte a riunire e fare qualche pranzo, qualche festa, ma dell'altro vai tranquillo che, non lo so, può darsi che dopo che vado in pensione riesco, ma non lo neanche pure, neanche, non lo so, ripeto, Anto, io ogni anno vado e quest'anno mi è andata male, non ce l'ho fatta andare a Borgo Manero, però il prossimo anno ci vado, io sempre a questi raduni sono sempre andato e mi piace andare, stare a contatto con queste persone e conoscere tutte queste persone qua, capito? E niente, se tu senti qualcuno da su, dal continente, in propagazione, mi ha definito il principe della Sardegna, Gigi Vulcano è il principe della Sardegna, capito? Prima mi ha detto il presidente, sono presidente troppo, prima mi diceva il presidente, comunque qualcuno dice che sono il principe della Sardegna. Beh, hanno detto assolutamente bene, hanno detto bene, adesso c'è da stabilire chi è il re però. Non lo so, comunque è così perché, non lo so, in tutto questo periodo che sono entrato, mi sono avvicinato, ho avuto a che fare con tutti, guarda, ti dico la verità, con tutti mi hanno criticato, mi hanno detto, tutti, non ce n'è uno che non mi abbia detto cosa. E tuttora me lo dicono, perché te lo dico chiaramente, perché quello per l'eco, per quello, per la radio troppo potente, per così. Mi hanno detto come sono passato su questo canale, sono passato sui canali normali, questi canali qua, sul 10, su queste qua, qualche anno fa mi hanno subito criticato. Subito mi hanno detto, hanno avuto a che dirmi cosa, capito? Padre Roger, stiamo un po' monopolizzando, ti ripeto, comunque il primato del buon comportamento e dell'ottima modulazione ce l'hai assolutamente tu. Avanti lo Sparviero. Sapevo di essere chiamato in causa, ma io, se devo esprimere la mia, con tutta la piena solidarietà, perché devo solo dire che condivido e apprezzo il discorso che ha fatto Luigi, per un semplice fatto che come dissociarsi dai gruppi fa parte anche del bisticciare di gergo sassarese, come ha detto Luigi. Non è detto che però non ci sia magari un affiatamento tale da far sì, come ha detto Antonio Diossi, che si possa riunire tutto e non far morire questa moneta 27, perché attenzione, io sono l'unico preso in considerazione a Sassari, ma non perché sono il numero uno, perché mi reputo il migliore di tutti, no, io sono preso in considerazione dal fatto che sono un OM e la mia sezione mi ha già fatto a pezzi diverse volte. Ho avuto un grande battibecco da pochissimo, proprio per il fatto che chi oggi ha la patente superiore odia completamente la 27 e dice che lui non si abbasserebbe più a fare una cosa del genere. Non è assolutamente vero. E se lo è, ma essere CB per me è la stessa cosa, non cambia niente. E appartenere a un mondo radioartistico che è quello della telecomunicazione. Ed è una cosa che deve far piacere sia a chi ha la patente superiore, sia che a quelli che hanno la patente inferiore, la cosiddetta licenza CB. Per come la vedo io. Siccome a me piace comunicare, fare radio a modo mio, io uso uno e l'altro. Ma non mi allontanerò mai, anche se qualche volta sono rimasto un po' in disparte, ma sono rimasto in disparte per dei periodi di riflessione, perché continuare ad avere battimicchi come persone, continuare ad avere litigi non serve a niente, anche se qualcuno continua in sordina, non in radio ma per telefono, a infamare il mio nome, a me non me ne frega niente. Io qua sono, qua rimango, qua sono nato e continuo a fare radio come ho sempre fatto. Poco o molto, però l'importante è che io ci sia e che faccia sentire ogni tanto la mia voce. Antonello Avanti, di Ussi. Mi sono uscito da casa a prendermi le sigarette. Continuate tranquilli che vi sto ascoltando. Allora, il microfono a forchetta. Di qualcosa, Antonio. Vai così, dai, beh, è giusto, sia così, è vero, è giustissimo, si cerca sempre di portare più gente possibile, ma in effetti alla fin fine è solo una speranza che sia, dai, tutto qua. È una speranza, è una sicurezza che porteremo avanti e vi offro almeno una centinaio di posti di lavoro, mi consenta. Aspetti, vengo su, lei sì che... Mi consenta un po' di palle. Lo faremo, vedrete. Ma non per altro, vi dico la verità, perché non ho altro da fare, capito? Quindi ormai me lo sono messo come obiettivo, e volente o nolente, anzi voglio che ci sia qualcuno, non come Vulcano assolutamente, che anzi dà esclusivamente il suo parere, che è critico però in positivo, nel senso che mi aiuta comunque a non sbagliare, perché mi dice dove sto sbagliando, ma ci sono anche quelle persone sicuramente che saranno critici in negativo, scusate, la dislessia. Cioè ci sono quelle persone che cercano di metterti il bastone fra le ruote, e quelle che sono le persone che non sopporto, vedi? Perché le critiche positive o negative ben vengano, perché quelle negative soprattutto ti aiutano a non sbagliare. Quelle positive sono elogi, sono pacche sulla schiena e non servono a niente. Però andremo assolutamente avanti, questa è la mia promessa e me lo sono messo come punto di arrivo, assolutamente. Comunque, Anto, io, guarda, io per le cose sono sincero, io ho detto quello che mi sento io di dire in questo momento, non ti dico una cosa per dire una falsità, dico sì, va bene, è una cosa giusta, così, sono tutti, penso che tutto vale bene, fate così, no, io ho detto quello che proprio penso dentro di me, capito, quello che penso, quello che ho visto in questi anni, capito, questo sto dicendo, ho detto io, non ti dico cosa fingo e dico una cosa per farti contento, no, non lo fa, io quando dico una cosa sono sincero, ho detto quello proprio che penso dentro di me, capito quello che ho vissuto, quello che ho visto in tutti questi anni, capito anche quello che capito quello che deve ed è giusto quello che mi stai che stai dicendo tu, che hai capito, che l'hai capito veramente, perché è una persona intelligente, lo capisce. Ci mancherebbe, ma poi ti ripeto, tu sei una persona degna, adesso non è che ci stiamo autoincensando, però sei una persona degna di stima e degna di essere ascoltata, assolutamente, lo si vede per la stima che hai, che le persone hanno nei tuoi confronti, quindi assolutamente sì, non pensare che non tenga assolutamente in considerazione quello che stai dicendo, anzi. Se sto sbagliando io ti pregherei sempre di dirmi quello che pensi, poi ne possiamo discutere. Ma non stai sbagliando, Anto. Bisogna che uno ci creda proprio e è una passione, una cosa che deve uscire proprio dal cuore, capito Anto? È proprio una cosa che lo deve avere, lo deve sentire proprio, capito? Se no non lo porti avanti, deve essere una cosa che ci devi credere, devi essere proprio sicuro in te, è una cosa proprio, deve uscire proprio dal cuore questa cosa, capito? Io guarda, te l'auguro con tutto il cuore Anto, che fate una cosa e fate guarda, sono guarda, di dire ho sbagliato in quello che pensavo io. Io sono contento che dovrei dire, come hai detto tu, fra uno so un mese, due mesi, tre mesi, io in radio ti dico ho sbagliato, di quello che ho detto mi sono sbagliato. Guarda, io mi auguro di dire queste parole. Parte delle persone che frequentano questo canale, comunque ricordatevi che ci sono molte persone, come ha detto Claudio più di una volta, che sono in ascolto. La miglior cosa per insegnargli, per insegnare alle persone a modulare è dare l'esempio, cioè mettersi nelle condizioni di modulare in un certo modo. E io credo che qua ci siano degli ottimi esempi su come si porti avanti il discorso della 27 e su come si viva la 27. Poi, vi ripeto, mi stanno arrivando consensi un po' da tutta dalla provincia, non lo posso dire, però sono arrivate anche email da patata, email da patata che confermano che più di una sera si sintonizzano sul 10, purtroppo loro non riescono ad arrivare qua, però ci sentono. Comunque sentono Claudio, sentono Falchetto, sentono le stazioni più forti, le sentono. Quindi questo mi fa un enorme piacere. Se devo dire una cosa, c'è pure una Santa Teresa, Anto, che ti ascolta a noi, in particolare ascolta a me, quando io attacco, quando attacco, veramente lui mi sente a Santa Teresa, capito, mi sente a volte nel 10, nel 12 mi pare, comunque, mi ha detto che però lui non riesce da noi a farsi ascoltare. Capito? Questo ascolta, conosce la modulazione, conosce a Claudio Spalviero perché lo sente parlare, ma non lo conosce di persona, però conosce la presenza a Claudio Spalviero, sente a Gigi Vulcano, perché un giorno io ero lì a Parao e mi ha sentito, ma tu sei Gigi Vulcano di Sassari, quello che senti Spalviero, sento Spalviero, poi mi ha detto un altro anche di stazione che se lui riesce a ascoltare a volte dice cerca di chiamarci, però non c'è mai riuscito a mettersi in contatto con noi. E questa è una trasmonetista a Santa Teresa di Gallura. Allora gli ho detto prova a fare qualcosa, aumentare qualcosa se riesci a arrivare a Sassari. Però lui si ascolta. Ascolta a me a volte quando attacco, non adesso non mi ascolta più, quando attacco qualcosa che sente a Spalviero, qualcuno di Sassari, due o tre, lui li ascolta da Sassari, e questo qui non si ascolta a noi, perché me l'ha confermato lui da poco, me l'ha confermato lui che lui ci ascolta, infatti mi ha fatto il nome di Spalviero, e lui ha sentito nominare sempre questo Spalviero. Sì, ti ripeto, ma io sto ricevendo tutta una serie di mail nella posta elettronica dell'associazione, dove ci sono anche persone che per terzi mi chiedono appunto informazioni, perché non tutti, soprattutto tutte persone che a una certa età, vecchi cibin, sanno usare il computer. E da poco mi ha appunto scritto la figlia di questo vecchio cibin chiedendomi informazioni perché il padre vorrebbe riprendere. Queste sono cose che mi fanno enormemente piacere e se dovesse riprendere ancora di più. Ad vero che gli ho detto che lo metteremo nella condizione al più presto di ritirare sulla stazione. Avanti lo Spalviero che stiamo monopolizzando. Oh ragazzo, io vi saluto, ragazzo. Vai, perché ci vuole dire tanti di chi si goglie, cioè la moglie di cosa, di Antonello di Ussi, Antonio Città Presidente, lì si è messo nel canale 11. Meisha, evidente un corazzo, se ci rendi sotto sopra la radio. Beh, io sono qui, te lo stavo per dire anch'io, è sull'11 mi sta, guarda, bombardando, detto questo io vi saluto, vi auguro un buon 144 quando lo fate, dai, io me ne vado in 2:20, dai. Ci si aggiorna domani, ciao a tutti, buonanotte da parte di Pacchetto. Ok, dai, anch'io mi che poi me ne vado andando, dai, tanto qui. Vai Claudio per Falchetto, non so se è un po' di strada. Ehi, ehi, no, mi sembra, appunto anche questo c'è altro, so che intanto rimane in quelli che si ascolta, c'è un problema. Non so se stai andando via anche tu Gigi, ma bisognerebbe far capire magari che un canale è troppo, stare vicini, anche perché io, nella posizione in cui mi trovo, adesso lei non sente chi sta parlando, io sento voi, ma sto prendendo un bel colpo al canale adiacente praticamente. Niente, qui non vorrei disturbare, insomma. È un discorso molto, non è complicato perché non lo reputo complicato, però è un discorso che secondo me lui, io sono molto scettico, i discorsi con Antonio li ho già fatti di persona perché non mi va a approfondire cose con la quale io ho condiviso la mia infanzia, età superiore e gli altri ancora che sto convivendo con la radio, perché io sono nato nella radio, io la prima cosa che ho chiesto a mia madre quando ho compiuto 14 anni, gli ho chiesto io voglio un baracchino, io ho degli amici che modulano, che stanno a casa, io ero molto, stavo molto a casa e quindi mi regalavano proprio il baracchino all'età di 14 anni. E da lì ho iniziato la mia passione, la mia voglia di fare, la mia presenza in radio sempre, da sempre, con sempre questo nominativo. Io ho 14 anni, Sparviero mi chiamavo, Sparviero sono a 51 anni, e quindi niente. Perciò la passione, se c'è da ragazzo, io penso che ognuno se la porti appresso a vita. Intanto mi vengono le paranoie, però non riesco ad allontanarmi, non riesco a, nonostante sia cresciuto di un gradino, però mi fa molto parlare qua e chiacchierare fare, là sapete che è un mondo completamente diverso e che quindi il dialogare a questi livelli lì non serve niente, non serve nessuno, non interessa nessuno. È un mondo completamente diverso fare radioattore e quindi preferisco passare il mio tempo libero quando ce l'ho, quando è possibile, così con gli amici chiacchierando come normalmente si fa di persona, e credo che le parole di Luigi siano veritiere, perché se uno più uno fa due dovremmo avere risultati. Se però questo 2 non arriva e diventa 1 più 1 uguale 0, vuol dire che abbiamo fatto un buco e che naturalmente ci reputeremo non persone non valide, ma il discorso che ha fatto Luigi rimarrà insomma molto, molto chiaro a tutti. Vuol dire che a nessuno interessa creare un qualcosa che magari possa crescere con l'andare del tempo, come hanno fatto tutte le prime associazioni nate, insomma, ecco, questo è il mio discorso. Poi si vedrà. Positivo, Antonio, tu già ci sei sempre, sì. No, mi stavo ascoltando, sono passato un attimino prima sull'11 per chiedere a Patrizia di spostarsi un attimino di un canale sopra, perché anche a me mi stava arrivando un po' di sprati. Positivo. Ti ripeto, lui, io ci ci credo, ci sto credendo, ci crederò, tant'è che dal punto di vista burocratico, economico-burocratico ci sto mettendo anche di tasca. Spero di non rimetterci di tasca, ma per mia decisione, attenzione, perché gli altri componenti che stanno aprendo come l'associazione volevano dividere la quota, ma siccome me ne assumo i natali e allo stesso tempo quelli che dovrebbero o potrebbero essere potrebbe essere un fallimento, allora dico ci rimetto io di tasca e non c'è nessun problema. E credimi che non è poco aprire un'associazione, io pensavo che davvero si potesse aprire con pochi spiccioli, invece non è esattamente così, perché purtroppo lo Stato italiano mangia anche su queste cose. E solo per presentare la domanda all'ufficio delle entrate ci vogliono 4 marche da pollo da 14 euro, oltre al fatto che devi pagare un F23 da 160 euro e tutta un'altra serie di cose. Quindi se sto investendo questi soldi, cioè io secondo me li sto investendo, non li sto buttando assolutamente, e solo il tempo me ne darà ragione. Positivo, dai. Positivo, però adesso io vi devo veramente salutare, perché io domani mattina vado a stare molto molto presto, molto molto presto, dai ragazzoli, dai, e lo prenderemo un'altra sera, un altro momento, ovviamente facciamo altre quattro chiacchiere su questo argomento e poi niente, dai, io per il momento vi do la buonanotte, perché devo alzarmi presto la mattina, devo andare a Cagliari e mi devo alzare molto presto. Dai, buonanotte Antonio, buonanotte Claudio, mi pare non sia rimasto altro nessuno. Antonello non so se ha ripreso, buonanotte anche Antonello e a tutti gli ascoltoni, eventuali ascoltoni che ci stanno in radio. Riprendi tu Antonio e io poi saluto e poi chiudo. Ben sentito, ben ascoltato, buon QRT e buon 144 quando lo farai, e ti ringrazio assolutamente per i consigli e per il QSO appena fatto. Avanti Sparvino. Ok Gigi, grazie delle due chiacchiere, approfondiremo il discorso magari più avanti. Ti auguro la buonanotte e la buona giornata di lavoro per domani, alle prossime. Ok, ciao, buonanotte a tutti. Sono rientrato e buonanotte Vulcano, alle prossime. Tanto, buonanotte, buonanotte. Ehi Antonio, la riprendi? Tua moglie mi stava uccidendo sul canale 11. Ma so che è successo, ma per te mi si vede, dov'è sull'11? A vedere come la modulazione come era viaggiando. E mi ha beccato un camionista lì, non so di dove era, di Napoli, non so che cosa, che stava scaricando a Sassari, e non credevo che c'erano gli sbratteri in altri canali dalla mia modulazione. Tieni conto dove sono io, un canale di gente come che sei qua vicino a me, tu non stai scherzando. Infatti sono rimasto in silenzio perché ho capito che stava parlando, e come io sentivo lei sicuramente sentiva me, quindi ho detto un attimino, sono rimasto in quel rix, poi Antonio è passato, gli ha detto se si spostava. Se no poi alla fine si capisce, non si capisce, siamo vicini Antonio, con questi baracchini così, un canale adiacente, come che sei qua a fianco a me, arrivi fortissimo qua, stai facendo tremare Toros, Falchetto si è messo in cucetta, quindi siamo rimasti noi tre. Allora Antonio Grode, riprendi tu. Ascolta Claudio, dimmi, guarda che quando muovi tu la verità arrivi già al 40, quello dipende anche dal baracchino, tu c'hai 48 o 68? Ah, il 68, siamo sul 12, tu sei sul 12, sul Santiago di 5, vado sul 5 e quasi sul Santiago di 9, infatti ogni volta devo cercare dove sei. Anche a me il 48 fa così, quando parli tu, quando parla Sassari no, quando parli tu, Antonello, insomma quelli che arrivate molto forte qua, Falchetto, fa così, quei baracchini sono un po' particolari, no, ma questi invece quarzati, questo sto usando io adesso, questo quarzato è un po' più selettivo, però ti sento anche la recente, 2, 3 canali, 4 canali ti sento, parola grande, non è reciproca la cosa, non ti preoccupare. Purtroppo purtroppo i baracchini sono così, ecco perché li ho sempre odiati, però quando si è vicini, allora si cerca, io Antonio Valizio moduliamo sempre quasi nello stesso canale, perché se io devo usare il baracchino, lui è il baracchino, non si capisce un accidente. La stessa cosa mi succedeva in via Pascoli, ecco perché io non usavo mai i baracchini, usavo sempre gli HF e quindi non sentivo nessuno. Però adesso che sono distante li sto usando, ma se usiamo tutti lo stesso canale, allora sì, se no, se uno è spostato a destra e a sinistra, se per esempio tu non sei qua, se sei un altro canale, io sono costretto ad usare l'HF per non sentirti, perché altrimenti ti sentirei, capito? Tutto qua, non ti preoccupare, non c'è niente. Antonio Grode, su Campari mandato a Ruga, Bortura. Bettino, ma non è Campari, no? Doveva essere, secondo me, la fetta di arancio che era un attimino andata, è per quello. Campari non c'entra niente, figurati. Ti stavo dicendo, ma secondo te, è meglio avere, per il tipo di geologia che abbiamo noi, geologia ho detto una cagata, di sinogeologico, per come è posto il terreno, è meglio la M o l'FM? Perché gli americani usano molto di più l'FM. FM eccezionale, anche perché ha un abbattimento di rumore con una selettività del 100%, quindi essendo proprio un selettore in automatico, quindi tu cosa fai? Adesso c'è da un minimo a un massimo, che praticamente segnali il problema di lavorare noi in FM, con la posizione che abbiamo un po' tutti in generale, Antonello da Voce che è molto alto, quindi riceve molto bene, Falchetto, tu, io, sono tanti altri, sa, se non è che siamo i migliori, però tutti in generale, chi più chi meno, chi ha l'antenna sul tetto, che quindi ha una ricezione valida, lavorare in FM va bene in questo locale, perché al momento in cui io decido lavorare in FM mi elimino tutto, anche il QRM, quindi chiudo lo squelch. Tu che eciti il relè di apertura dell'FM, apri e quindi io ti sento. Se il segnale è sotto il 9 e non apre il relè della ricezione dell'FM, sembra che non la puoi far entrare la gente, capito? È una cosa che mi ha sempre dato fastidio. Mentre invece in AM hai tutto aperto, quindi anche un segnalino basso, c'è un break lontano, un attimino ho registrato un break lontano. Io, tu, insomma chi lo riceve lo fa entrare, ma al momento in cui tu c'è lo squelch chiuso e quello in FM giustamente chiama, non ti apre lo squelch, tu non lo senti, sembra che non lo vuoi far entrare, la cosa diventa antipatica, questo è il concetto. Ma poi se non sbaglio, perché comunque c'è una trasmissione un attimino più ottica, a visione ottica, nel senso che molto potente, ma basta un ostacolo fra le due antenne già crea problemi in FM, cosa che in AM invece è più sormontabile. Sì, a livello di questo locale è fattibile tra di noi, qua moduliamo FM stasera, moduliamo FM, però dobbiamo stare molto attenti ogni tanto a curare anche l'apertura e la chiusura dello squelch, perché se c'è, ti ripeto, qualcuno che chiama e non ti apre lo squelch, è antipatico, diciamo, questo non mi fa entrare. Capite, succede un po' di cose brutte che non mi piace, quindi, perché altrimenti anche a me piacerebbe trasmettere un po' in FM, insomma, anche per la selettività, come hai detto tu, per i vari rumori, ma quanti segnali, che un segnale per dire 6-5, prendiamo Gianni Chiaramonti, che a me mi arriva a 7, se dovesse parlare in FM io penso che arrivi almeno 9-9-10. Con una limpidezza, una chiarezza radio molto superiore a quella che potrebbe usare in AM, perché il QR mata, c'è QSB, ci sono tanti vari disturbi derivati anche dalle scariche elettrostatiche, dal tempo, dal vento, quindi in FM questo viene tutto curato perché è una banda passante, quindi chiaramente lavori molto meglio anche chi sta ricevendo. Però c'è sempre il però che un segnalino basso non ti apre l'apertura della ricezione e sembra antipatico e quello pensi che non lo vuoi far parlare e quindi funziona, se no avremmo provato che è stato modificato questo. Quando abbiamo modificato funziona male in FM. E niente, cosa vuoi che ti dica? Speriamo che vada tutto bene, spero sempre quello per l'associazione, tutto lì. Se abbiamo un buon idea andiamo d'accordo, tranquilli, anche se nessuno è perfetto, per carità. Se non ci crede già vanno bene le cose, tocca a noi là, lavorare un pochettino di sale in zucca e farle funzionare, questo è il mio pensiero. Stavo dicendo, Fra, comunque ripassando il discorso sulla frequenza, cioè non sulla frequenza, sulla banda, realmente sarebbe stato meglio lavorare in FM però in una frequenza un attimino più alta. Perché le frequenze, se non sbaglio, più è alta la frequenza, più l'FM diciamo si adatta, cosa che invece la M arrivata a una certa, cioè a una certa frequenza non va più. Ah sì, su quello sì, infatti si chiama proprio frequenza modulata perché già conviene, come hai detto tu, salire in alto, far lavorare la radio ad un livello almeno del 50% in più. Se siamo a 27.075, la frequenza ideale per l'FM sarebbe 27.375, quindi già interferisce molto, molto più la frequenza modulata, mentre in ampiezza la cosa cambia, il canale più basso è l'ampiezza, più rimane stretta e più QRM ti attivi. Questo poi si stabilisce. Ora, il problema del canale 10 è nato qualche anno fa, insomma, parecchi anni fa, quando un nostro appunto collega Cibi di Sassari viaggiava per lavoro e non c'era mai nessuno, io altre persone insomma che erano a Sassari, stando un po' in ascolto, scambiando così due chiacchiere, ma giusto perché eravamo magari al computer, mi ha detto, ma adesso il canale 10, rimane lì e sai, rimane lì, e una chiamata oggi, una chiamata domani, si è un po' sparsa la voce, abbiamo quelle 4, 5, 6 persone, sono diventate 10 e continuiamo a modulare sul canale 10. Tra l'altro ricordami che con altri CB che non cito perché per me sempre CB sono, nonostante tutte le polemiche, tutte le cose che sono successe, io ribadisco ci ho messo una pietra sopra ma ne frega niente, poi lo dirò ancora, sono cose che una persona porta dentro, ma io non sono di qui. E comunque, a prescindere da tutto, è stato fatto un giornalino del canale 10, che praticamente sono delle buffonate, delle cose, degli scherzi, delle parole dette male, involontariamente, apposta. Insomma, si è creato un giornalino molto, molto bello, molto interessante, che da una parola detta così male, io ho creato un qualcosa che l'ho anche letto, ma te lo faccio leggere a te, perché se riusciamo lo stampiamo al momento in cui facciamo questa benedetta cosa che dobbiamo fare, senza sottolineare altri movimenti, ed è una cosa molto bella. Il titolo di quella prima pagina che io poi ho postato e già iniziato a stampare al computer si chiama canale 10, una parola è troppa, una parola è poca, due sono troppe, e sono scherzi fatti così, te lo farò vedere e poi mi dirai cosa ne pensi. E mi dispiace che l'inserimento del titolo casi freddi adesso il canale 10 sarà ufficialmente ufficializzato come il canale dell'associazione. L'unica cosa, ti ripeto, ho un po' i miei dubbi per quanto riguarda il fatto che sia vicino al canale che poi utilizzeremo come canale di emergenza o di radioascolto, che è il 9, a meno che non vogliamo spostarci sul 19, benché i vecchi apparati abbiano proprio la levetta per spostarsi sul 9, sul canale 9, quindi potremo creare dei disturbi, diciamo degli sblatteri, capito? No, siamo quasi a centro banda, 10-10, fa 20, quindi siamo intermedi, se tutti sposti su 19, noi diamo adito a bisticci, a problemi e cose varie. Io direi certamente col consenso di tutti, secondo me questo è il canale ideale, perché è un intermedio e 5 canali sopra dal canale 5, 11 canali intermedi da quello che può essere l'attivazione, il QSO, le chiacchiere di altre persone, e che quindi è giusto non disturbare. Perciò quanto io direi meglio qua si ufficializza, si fa, è abbastanza conosciuto Cali 10, perché come è ben visto e dimostrato da sempre, da quando io sono sul canale 10 vengono tutti a chiacchierare, a scherzare, a fare, quando non ci sono io giustamente e non ci siete voi, le persone vanno dove trovano gente, più che giusto, questo sottolineo più che giusto, perché non vorrei che magari qualcuno pensasse che è obbligatorio rimanere nel canale 10, nel modo più assoluto. Questo è un riferimento anche per te, Antonio, perché non esiste una cosa del genere, forse hai capito male, ma poi avremo modo di vederci, di farci le chiacchiere. Io non ho mai imposto a nessuno che bisogna parlare solo nel canale 10 e non andare a trovare le altre persone negli altri canali, nel modo più assoluto. Questo però è una cosa che a scelta tutti possono fare, valutare, vedere, ognuno di voi fa quello che vuole, so. Nel momento in cui si ufficializzerà il canale 10, allora si dirà noi siamo nel canale dell'associazione, basta. Poi se uno vuole andare a salutare l'amico, andare a fare due chiacchiere con chi non vorrà, questo dico, lo sottolineo, non vorrà chiacchierare con quelli che sono in canale 10, è libero di farlo tranquillamente senza nessun problema, senza soprattutto chiedere permesso a nessuno, è una cosa normale. E quindi oggi noi paghiamo la concessione per 40 canali, quindi i canali non sono di nessuno, ci sarà un riferimento a canale 10, ma il canale 10 è libero a tutti quelli che vogliono entrare, chiacchierare, dire la sua e soprattutto confrontarsi con le persone che lo frequentano, che ne dici. Questa è una cosa che dobbiamo mettere in chiaro da subito, non ci deve essere atti per nessuno, non ci deve essere nessun problema da parte di nessuno, per nessun motivo, perché altrimenti sarebbe una cosa antipatica per tutti. Posso un attimo? Vai. No, però non ti devi preoccupare, non c'è problema, io non sono di quelli, stai tranquillo. Poi già valuterai tu come sono io, comunque, non ti devi preoccupare, stai tranquillo. Niente, per il discorso che stai facendo tu, io l'ho fatto per valutare, perché io valuto, ed è capitato, la verità, non voglio dire cazzato, dovrebbe essere, due giorni fa è successa una scena veramente proprio pietosa, la verità, molto pietosa, e da lì ho capito tutto, l'ho fatto solamente per valutare, tutto lì. Antonio, le chiacchiere, le parole si fanno di persona, il problema è che, sottolineo, tutti, dico tutti indistintamente, sono autorizzati ad andare dove vogliono. Ripeto, noi paghiamo la concessione dal canale 1 al canale 40, quindi siamo liberi di parlare ovunque e con chiunque. Non c'è nessun problema, quindi io non voglio, proprio assoluto, e tu, qualche altro che l'ascolta, eccetera, persona, mentre io non lo faccio per questione di correttezza e mia personalità. Perciò non è detto che se non vado io non dovete andare voi o chiunque. Attenzione, al momento in cui tu sei qua e qualcuno di quelle persone con la quale io non parlo viene nel canale 10, stai pur certo che quello sparviero non fa né scandali e né niente, sta zitto e ascolta, punto e basta, ecco la chiudo. Non ci devono essere questi problemi, perché altrimenti, come abbiamo già detto con Antonio in altre occasioni, anche stasera abbiamo fatto due chiacchiere, abbiamo preso un caffè assieme, eccetera, diventa una cosa che non si finisce mai, una ruota, sai, come la faida, no? Tu fai a me, io faccio a te, tu fai a me, io faccio a te, non esiste, dobbiamo solo esclusivamente parlare in radio, parlare tutti, e al momento in cui uno non vuole parlare con una persona che sta zitto e basta, non deve creare problemi, ma tu sei andato lì, io sono andato qui, tu hai fatto quello, no, forse c'è stato un plico qua, come si dice, no? Qui qua, poi ci si è dato, non lo ricordo più. Però il discorso, hai capito qual è, Antonio? Bisogna andare e fare le cose che uno ritiene giusto fare. Se io ho un amico nel canale X, che non mi interessa neanche dire, e voglio andare a salutarlo, vai a salutarlo. Nessuno ti impone che tu devi rimanere qua, secco e pesto, a parlare con Carlo Sparviero, con Antonio Rode, con Antonio Falchetto, con Gigi Vulcano, con Antonio Alessio. No. Si gira, si parla, si saluta nelle dovute maniere come ci hanno insegnato a fare, punto e basta. Queste cose io le ho già dette la prima, le ribadisco per noi che stiamo parlando, noi tre, ma anche per chi ascolta a me, non me ne frega assolutamente niente. Io ho ripreso a fare Radio 27, con chi voglio farla, con chi non voglio farla non la faccio, io Claudio Sparviero. Chi non ha problemi con la gente deve andare giustamente dove ritiene giusto andare, punto e basta. Fatto sta, io quante volte ti ho chiesto a vedere se stavi dell'associazione, quante volte te l'ho chiesto? Tantissime volte. E perché secondo te? Non te l'hai mai fatta questa domanda? Ne abbiamo parlato anche qua, mi pare un po', ne abbiamo parlato anche qua, perché ci tieni e perché vuoi che io ci sia, come lo vogliono altre persone. Io ti ho detto, è una cosa da riflettere, da valutare, da vedere. Oggi è un momento in cui le cose stanno prendendo piega, ci stiamo lavorando tutte e tre, stiamo lavorando tutte e quattro, tutte e cinque, quelli che siamo. È chiaro che prendere piega ad una cosa, andare avanti un progetto che non è facile, ma andare avanti, attenzione, si cerca giustamente da una mano. Si cerca di fare, si cerca di capire, e nel capire, come si dice a Sassero, la notte porta consigli, quindi notte per notte ho capito che necessita anche una mano da parte mia, e quindi ho detto va bene, proviamo a fare anche questo passo, proviamo a vedere cosa riusciamo a tirare fuori, e spero con tutto il cuore che tutto vada bene, a prescindere dal fatto che ci possono essere persone contrarie o non contrarie, persone valide e non valide, però io dico che con l'aiuto di tutti qualcosa può andare avanti. Dunque, fatto sta, niente, io per come ti ho detto spero che abbia capito la parte mia, quello che quella, diciamo, il mio pensiero da parte tua, se te l'ho chiesto minimo un centinaio di volte, un motivo c'è, tu dirai. Aspetta che passa un attimino Radio di Sole, che devi dire qualcosa a grobbe. Grazie per l'introduzione. Io vi informo che da domani cambio canale, perché il signor Grobbe mi ha fatto sfuggire un camionista. Mi scuso se io stavo disturbando la vostra frequenza, ma non lo sapevo, perché di queste cose non me ne intendo. Ma stavo parlando con un camionista e il signor Grode me l'ha fatto sfuggire, quindi io da domani cambio canale. Sono sono dei rinomati Latin lover, i camionisti. Mi stavo preoccupando innanzitutto per il mio socio e in secondo luogo per me. Perché per te, scusa? Non avrei voluto mai perdere un'associata come lei, signorina. Io non sono un'associata, quindi posso parlare con i camionisti. Infatti è molto al luogo, è futuro prossimo. Scusi un attimo, io non vorrei pensare quello che sto pensando, lei intenda quello che io vorrei dire, ma lei, io sto parlando con un camionista, me l'ha fatto sfuggire ed è anche di fuori. Punto, ma è bene che torni fuori. Poi è giusto, camionista è un po' un viandante, uno che deve viaggiare, no? Quindi non lo distragga alla guida. L'ho fatto anche per il camionista. I camionisti si imparano tante cose, lo sa lei, eh? Ovviamente sono dei grandi maestri di vita, tant'è vero che noi li super cordializziamo come siamo e speriamo di essere al più presto amici dell'altra associazione, che associazione non è, ma è ancora più importante perché è associazione di fatto, perché al pari di una coppia che non ha bisogno di sposarsi per stare insieme, non ha bisogno di un contratto, non ha bisogno di che nessuno gli dica siete sposati, i modulatori puro sangue si sono associati senza saperlo e hanno creato un'associazione sicuramente più forte perché è data esclusivamente dalla stima e dalla reciproca amicizia. Ecco, adesso non so dove volevo andare a finire, dove volevo andare, perché sto dicendo un attimino che il raggio di sole, un attimino che ne devo passare pollicina qua a fianco, che non so cosa devo dire. Ben sentita, raggio di sole, volevo dirti che sei stata stupenda, perché anch'io non mi sarei fatta scappare il camionista. Brava, guarda, io ti stavo... Guarda, non fammela dire che la stavo per dire, ma proprio, guarda, il signor Grode me l'ha fatto proprio sfuggire, volevo anche far passare anche a te. Guarda, io ce l'ho a morte con il signor Grode e ti spiego perché. Perché mi ha fatto fare un Sassari Cagliari con baracchino in barra mobile e con un pezzo del microfono rotto, quindi io vedevo i camionisti ma non potevo parlare con loro. Secondo te poteva adirarmi? Certo, io gli avrei tirato in testa il microfono da signor Grobbe. A me ne ha fatto sfuggire uno adesso, ma guarda, era interessante, c'era questa voce proprio profonda, quindi non me ne sono approfittata. D'accordo con te, tra l'altro io sono molto legata ai camionisti perché per un breve periodo della mia vita non posso dire di aver fatto la camionista, ma quasi, quindi sono molto legata a loro e mi dispiace non poter comunicare tutte le volte che capita. Scusate un attimo, Claudio, fai la cortesia, pensaci tu. Con questo è un dialogo, ciao Pulicina, buonasera, ben ascoltato. Questo è un dialogo tra donne, Antone, non possiamo intervenire noi, quindi voglio che concludano tutte e due, o vorrei che concludessero tutte e due. Aspetta molto Claudio, anche a te e a tutti gli amici in ruota. No, io invece vorrei che voi partecipaste all'argomento. Io non posso partecipare perché sono del tutto estraneo ai fatti, visto che Antonio Grode è partito in quarta da solo e non ha fatto altro che fare danno, quindi io sono solidale con voi due, cosa devo dire? No, sono d'accordo con te, ma devi capire che il giovane Virgulto è stato preso dall'entusiasmo della chiacchierata con voi e quindi ha pensato bene di estraniare sbagliando raggio di sole. Avvicinate il signor Grode. Ma vi siete sovramodulati, però sentite tutte e due, no? Io il problema è che la posizione in cui mi ritrovo è quella della persona che certamente non può andare contro i camionisti, anzi ne deve elogiare esclusivamente le doti, perché un domani sicuramente dovremmo fraternizzare con i modulatori puro sangue, assolutamente, anzi vorremmo che alcuni di loro facessero parte della nostra associazione, non posso dire tutti, ma è una speranza, so che è una speranza vana, ti ripeto. Però è così, il camionista è un Latin lover, è un po' il marinaio della strada, il camionista, nel senso che in ogni porta ne deve avere una, capito? Quindi è per quello, preso da preoccupazione ho cercato di salvare la signorina a raggio di sole, appunto. Sì, il problema lo sai cosa è? Se permetti, io devo mandare un'altra associazione e chiamo mia moglie, ma lui c'è matto. Antonio, ricordati una cosa, che le corna sono come le scarpe, ognuno di noi ne ha almeno un paio. Poi c'è chi ne ha anche due paia, chi c'ha il calzaturificio, vedi tu. Sì, ancora pronto non mi duole, però sai, camionisti, tra i camionisti marinai... Entrambi. Da portante comunque, avanti il break, se non break. Ho detto cosa devo sentire. Ah, Varchetto, aspetta un attimino, ti passo la pollicina. Ben sentito Falchetto, mi mancava, avevo il terrore che fossi andato già in 144. No, oh, sempre l'ascolto sogno io. Questo accento siculo perché? Rico, sempre l'ascolto sono. Sì, ma scusate un attimo, cos'è questa storia tra Falchetto e pollicina? Questa è nuova, Noi ci siamo. I fan di Tazenda. È vero, posso confermare, positivo. Tra l'altro aspetto ancora che mi finisca di cantare la seconda strofa. Falchetto, vai. No, me ne sto andando in 144 perché qua c'è gente nascosta e non fa, dai. Pazzi. Va bene, Falchetto, dai, ben sentito, ben ascoltato, ci ascoltiamo fra quanto? 10 minuti, scarsi. Salutone a tutta la rotella, già rimango in ascolto finché si può, se no apparentemente tutti super salutati. Esatto, ci passa adesso un'altra sigaretta, mia, adesso la stavi già cercando con gli occhi. Ui. Anche Claudietto già se le pippa le sue 200-300 sigarette al giorno. No, noi ho un pacchetto, 18, 15, dipende dalle giornate, perché è un vizio un po' balordo che comunque cerco di tenere molto, molto ristretto, se mi lascio andare guai, ma anche perché non è che posso, tante tante no. Purtroppo, da quando facevo i turni che sono venuto qua a Sassari, allora ho iniziato a fumare un po' di più, altrimenti è una decina sempre. Vabbè, pazienza. No, Antonio fuma sicuramente molto di più di me, non lo so. Quindi, ricapitolando, pollicina. Tu sei d'accordo quindi con quello che ha detto Patrizia, così? Sono d'accordo perché un camionista vale sempre... Ascolta Antonio Gobbe, adesso ti metto la parrucca, tanto ti ci sta bene. Possiamo farci un giro? Strano. Guarda, bastavano altri due campari ed eravamo già imparruccati. Ci vuole un tomascio per una dura recce. Te l'ho detto, ma non ho capito se tu sei più per il vino o per la birra, o per la birretta. No, io non bevo birra. Io preferisco un aperitivo così, un vinilino bianco, una cosa, la birra non mi piace, si rassaggio, ma poi non sono molto amante la birra. Mi piacciono più quelle cosettine così, non bevo super alcolici già da diversi anni, però il vinello così mi piace gustarlo, magari anche quell'ora lì, insomma, 7-8, proprio prima di cena, e poi a casa bevo acqua, perché non mai avuto vino a casa, no? Che non sia gente, allora sì, se non bevo acqua. Capa di Roger, per ufficializzare comunque la registrazione, adesso non so se il lunedì direttamente, visto che, oppure anche questo fine settimana è troppo vicino, ci facciamo un pranzo da modale, se sei d'accordo, noi e un altro po' di gente, dai. È la grande, io ti ho detto anche oggi, mi pare, quando ho un fischietto avvisami magari un giorno prima, un giorno prima, non sa mai che abbia qualche problema al lavoro, perché io con la reperibilità che ho sempre il terrore di come è successo un giorno che c'era Falchetto qua, eravamo a casa facendo i cavoli nostri, ha squillato il telefono e sono dovuto andare vicino a sentire, quindi è venuto anche lui a farmi compagnia, perché c'era un problema in un impianto e sono dovuto andare a fare delle regolazioni. Quindi siccome mi è capitato altre volte, non vorrei poi dire signori io devo scappare perché mi hanno telefonato, quindi avvisami in modo che il giorno che ci spostiamo, che stiamo assieme, do forfait praticamente, dico che non ci sono, quindi il telefono rimane spento. Solo quello ti chiedo, avvisami prima, non c'è nessun problema da parte mia, figurati. Tutto ok. Ascolta, una paura c'ho però. Non dobbiamo bere vino, beviamo acqua. Tipo, a proposito di Falchetto, ma non è che come adesso acquisisce una spinta maggiore da, intendo come apparato, da Falchetto diventa Falcone, no? Ho perso proprio. Bella questa, Arturo. Non penso proprio. Comunque, ma come mai, ti posso chiedere come mai Falchetto? Perché quello degli altri realmente lo so il nome. Il nominativo tranne quello di Antonello Barracuda, che adesso ci dirà, però. Perché Falchetto? Chi è che ti ha messo il nome di stazione o l'hai scelto tu? No, ho scelto io. Caffa, dai. Mentre invece Barracuda perché? Barracuda perché? Perché da piccolo amavo tantissimo Conan, il cartone animato, e c'è anche diciamo il DVD con tutte le puntate. Era il mio cartone animato preferito, ancora è il mio cartone animato preferito. E c'era, se ti ricordi, e che l'ho visto il cartone animato, c'era il capitano Days, un tipo, un marinaio sempre vestito in bianco con i baffi, e la sua nave faceva di Barracuda, allora da lì mi è venuto questo nominativo per affibbiarmelo. Esatto. Ma Deis non si chiamava quella che poi si è sposata con lui, quella con i capelli rossi che faceva parte dei soldati d'industria? No, lui era il capitano Deis e poi si è sposato con Mondri, che poi lei era diciamo la mano destra, no, il braccio destro di... aspetta, della torre, come si chiamava? Adesso non mi viene in mente, aspetta, te lo devo dire veloce. Cavolo, come si chiamava quell'isola? Non me lo ricordo più. Comunque manca l'isola che non c'è. Comunque lei faceva di Mondri, la tipa che stai dicendo tu. Dastria si chiamava l'isola, in Dastria. E il mio purtroppo non l'ho deciso io, me l'hanno dato. Purtroppo, ti ha dato un signor nominativo Gigino Vulcano, assolutamente. Raggio di sole, bellissimo. E adesso ho un dubbio che devo dissipare un attimino. Allora, cornetto algida, cos'è, nero la nocciola, al cocco o crocantino? No, non è crocantino, Samantana 5 stelle, allo fanno. Secondo me al cocco. Sì, vince il cocco. Sì, vai col cocco, mangiati io poco fa, è favoloso. C'è questa cappa di cioccolato vestita al cocco che è una cosa sfiziosa. Buon ragazzo, bravo, è vero. Invece a me non ho mai chiesto questo Sparviero, Renato. Sparviero lo so, ma stai scherzando che non so il nome del maestro, a te te l'hanno affibbiato, e te l'hanno affibbiato quando avevi 14 anni, che vuol dire che te l'hanno dato come diciamo piccolo uccello. Grande uccello, grande. È una mania di prosopopea, c'è lo Sparviero, è quell'uccello rapace un po' più grande dell'aquila che ha sempre quella mania di indragare le persone che vede dall'alto verso il basso. Che realmente non ti ho mai sentito fare prosopopea, comunque parlare di cose di una certa levatura, eh. Sì, ma sai, qualcuno lo crede, lo pensa. No, è un nome così, del ragazzino. E quindi me lo sono portato anche da grande. Ma no, non è attivo, normalissimo. Conosciutissimo soprattutto. Un po' da tutte le parti, anzi, da un po' di anni a questa parte sono molto, molto più sereno, altrimenti prima era una lotta per la sopravvivenza, proprio come fa lo sparviero, capite? Che vede ciò che cammina in basso, lui si butta all'impicchiata, lo tira su, quasi per salvarlo, ma poi ad una certa altezza lo molla. Ma chiaramente stavo scherzando, era sarcastica la cosa, ci mancherebbe, ci sta più che bene questo nominativo. È che ci stiamo iniziando a incensare troppo, bisognerebbe già iniziare un po' a andarci a fare. Stai attento che ti vedo da qua, ti stai per morsicare le dita. Tu lo sai perché è lo stesso motivo per cui la persona di colore mangia il cioccolato bianco, per evitarsi di morsicare le dita. Non fare come la suora, ti ho detto che non posso raccontarla, altrimenti poi sai, da un tatuaggio così bello diventerebbe una voglia. Esatto. Non te ne sai, ma c'hai appresso sempre il tuo assistente, che ti punzicchia, ma rimane sempre, sempre attento. Ui, ai, ai. Ma nessuno lavora domani, no? Perché tutti in ferie siete. No, io domani vado, infatti, mi è entrata anche una cavalletta a casa, porca miseria, mi fa l'impressione. L'unica cosa che mi fa fastidio è la cavalletta, comunque. Ma io domani devo andare al lavoro, e con l'occasione di saluto, ora in casa ci sentiamo domani. Buon proseguimento di serata. Antone, tranquillo e sereno, anch'io vado a lavorare, non preoccupate, non pensare sia in ferie. Io mi fermerò sicuramente il 14 e il 15, ma per questioni proprio di forza maggiore, perché a Nulvi ci sono i candelieri, c'è festa, quindi non ho da che mettermi in mezzo a stare lì a fare lavori. In tutti i paesi dell'Angrona è tutto festa, 14 e 15, quindi mi fermo proprio quei due giorni, poi vediamo 16, riorganizzare le squadre, ma sarà molto difficile, perciò dipende il 17, ma sono quei due o tre giorni proprio di pausa, di, come si dice, di riposo totale in assoluto. Mi stanno già organizzando, andiamo lì, andiamo là, andate dove volete, lei ha di su banco, anche lei ha di tutto, vai dove vuoi, a me lasciano stare tranquillo e sereno a casa. Beh, mi è crepato, ho fatto un discorso, una presopopea su Barracuda e sulla signora Raggio di Sole e me l'hai cancellato proprio, nel lettere l'hai schiacciato. Che cosa? Abbiamo parlato in due? Oh, hai parlato da solo perché a me mi hai gribato. Comunque, ripeto, ben sentito, ben ascoltato Antonello Barracuda, super cordializzato alla stazione Grode, altrettanto mi ha fatto piacere sicuramente il QSO che abbiamo fatto oggi, e altrettanto alla signora Raggio di Sole, che dovrebbe iniziare a pensare di rendersi indipendente, quindi avere un proprio apparato, perché questo può avere tutta una serie di lati positivi. Comunque, ben sentita e ben ascoltata anche a lei, e buon 144 quando lo farà. La ringrazio, molto gentile. Mi piace anche come mi liquida con due parole, bravo. Ok, allora ciao Raggio di Sole, buonanotte. Ciao a te Antonello Barracuda, un saluto rispettivo Correa, ci riascoltiamo domani. Va bene. No, non mi ero accorto, tanto che stavo parlando in due, che ti avevo calpestato. E con questo, con le bici 60 mi è talmente proprio facile come punti il dito sulle, che poi io uso sempre il lock, ma il PTT va direttamente in automatico e quindi sembra che stia parlando da solo, veramente, scusami, perdona, non lo faccio più, dai. È che ti ripeto, sembra lasciare raddoppio a chi c'è prima. Avanti, comunque per il finale Barracuda. Ti saluto, gli do la buonanotte e alle prossime. Ha ripensato, adesso è stata più loquace, la ringrazio. Avanti il Barra e Cuda. Sì, ma non era riferito a lei. Senti che un attimino ci siamo sovramodulati, forse, ripeta. Non era riferito a lei la buonanotte, era riferito al signore di prima. Cioè a me, la ringrazio. Reciproca, quindi mi volete tanto tanto bene. Grazie signora, buonanotte anche a lei, apprezzo di ascoltarla. Sogni d'oro, Piacere è stato mio, le auguro sogni d'oro anche a lei. Grazie, molto gentile. 144. Primo figlio, mi avete? Facci via, ma piccacci a me. Io a Picasso mandate, a Picasso qualche cosa ho detto, qualche cosa, un po' usata, boh. Sempre le cose pesci, tu la mangi a gamberoni qualche volta. No, mi fanno male i gamberoni, l'ho detto. Quindi cerchiamo di mangiare sempre roba fresca. Tanto ti vengo rientrati verso la Bassa Valle, però racconto di comuni, no? Ascoltando, non si spolano a lavorare, ci tocca anche a noi ancora fino a venerdì. Ehi Massimiliano, sono scoppiato, non ce la faccio più, avevi ragione, tosta l'osta, ce la faccio più, anzi oggi diciamo che un po' ho lavorato bene perché c'era quel venticello, stamattina stava così bene e ti dirò anche un pochino fresco, verso Nurbi oggi ho quelle zone, però quei giorni scorsi ho lavorato male, no, troppo gatto, vero? Aspetta a salutarvi che sono arrivato qua non ti a fare di casa, buonanotte a tutti, buon 144, sogni d'oro, e pigliate per il culo, ciao! L'ultimo saluto era bello, Massimiliano, altrettanto, a te solo però, altrettanto, saluti a casa e buon lavoro per domani, ci riascoltiamo. Quello completo era pigliare in culo, oggi e domani buru. Massimiliano, saluta. Ciao Massimiliano, buon 144. Massimiliano, ben sentito, ben ascoltato, buon 144 alle prossime. Ecco, un'altra cosa, che non dorme se non c'ha le cozze, è una cosa allucinante. Davvero. Da però, ci sarebbe da dire una cosa, che bisognerebbe esimere Falchetto da salutare. Lui è autorizzato a non salutare, assolutamente. Perché tanto è sempre presente, è una presenza. E non sei contento? Sono contentissimo, non sai quanto ti voglio bene, soprattutto quando mi sveglio alle 3 di notte e sento che stai modulando. Hai visto. E non se ne va se ci sono io, è un affiatamento reciproco. Poi Edo ridi, io non c'è persona in radio più allegra di Antonio, non ce n'è per nessuno. Come la risata, guarda, Antonio te lo dico, come viene qua a casa te lo faccio a me oggi. Quando ride Antonio coinvolge a mia moglie e a mia figlia, state sempre ridendo. Quando siete andati lì al raduno, tutto il viaggio ridendo. Ridendo? Ehi, ridendo ci abbiamo fatto lì. Ricordami, ti faccio vedere il filmino che abbiamo fatto. Dove c'è ride? Guarda, Antonio non ce n'è. E sia che ci crea problemi. Dillo cosa hai detto a Guido, Antonio, hai detto solo lì. Di te, solo di me, mi ha detto, ma dai, fammi un sorriso, ho detto, non mi hai creduto, comunque se non vuoi un sorriso te lo faccio, e glielo fate, dove sta il problema? Se ci mancherebbe, dove sta, perché? Ah. Non si crea problemi, proprio per niente, è una cosa da ammirare, guarda. Io è vero, avevo un amico che ti devo chiedere di persona, mi ha parlato tanto. ci mette la mano davanti, perché tra l'altro aveva un problemino. Che gli dà? Per natura, ma gli dà frutti. Questo ne frega, ci metti in trovo avanti perché ti ci vede che ti va fare. Ma ridi, sorriso è la cosa più bella che c'è, con i denti, senza denti, con la dentiera, con il dito nel naso. Già metta Guido. Chi ti dirà a me o rilendi? Tu ci sei più simpatico. Ma chi ci vive la vicina a te rilendi? Non vicino Massimiliano, nell'altra mancata. Cazzo. Pare allo figlio di Goldri. Non mi piace vedere la trachea. Bene, bene. Vabbè, non me ne frega niente. Io, guarda, ce li ho tutti conservati i denti. E me lo so, tutti tolti io, non è che sono andato dal dentista. Cioè, ce li ho tutti qua dentro il bicchiere. non me ne pongo problemi, no. Oh, come è bello che si muova. Via! Avanti, corri un altro. Ok, poi dovete andare, tu hai regalmini di buon gruppo ancora, avessi passato giù il gruppo. No, mi piace, ce l'ho tutti conservati, c'è. E anche di ghiaccio te posso vedere. E tu mi dici, ma tu sei ancora in campo. E io mi ritorno da me, no? Al dentista, che non è mai andato al dentista. Infatti guarda che si possono rimettere, cioè fai una protesi dove metti quelli veri. Sì, la protesi la devo pulire a di dovere, io non mi poco protesi, no. Lascia perdere, che non è così, dai. Io ho delle gingive molto duro. Hai capito? Ti musci che già sentamente mi sta capito, viva di quei denti. Scorreggio, ma cosa ti hai mangiato con il gelato? Mica di plastica. Antonio, però, mica di plastica con il gelato, ci dici un po'. Guarda che vomiti. Però io. Non eri tu, allora che mi ci senti male, chi è? Attenzione, che va trambuato. La moglie ha detto ma Antonio è partito. No, ma non sarà qualche bruttino perché non so, io non ci sono nome, non mi esprimo, ma secondo me mi è parlato un turno. Qualcuno che si stava dando aria, dai. Quella non era aria di corpo, quella era aria di culo tu. Cucudrillo come fa? Va. Aspetta, non te lo dici. Siete una banda di pazzi. Comunque si sta bene. Ci conviene uscire adesso per prendere il caffè. Ma io non te ne volevo uscire per prendere il caffè. Andiamo a prendere un forchetto. Prendiamo il caffè, poi ce ne rientriamo. Prendici il caffè, dai. Ah, ma perché mi parli sopra? Cosa hai detto? Cazzo, non lasciare come siete. Calici di Stella, ma con chi stai parlando? Con te sto parlando. Prendici un caffè, dai. Ma dove? La Red Lion. Azienda a Rovaio vicino a Luglio. Dove poi ti porta dalle amiche di Pomponio. Vai, aggiungo la gallina e cari quanto ha fatto quello. Quando abitava in Corsavetta di Morvere era sempre a Bunguglioli in testa. Andiamo a Goggia, ma i cantieri, i travagli, di mascelli a capo, di curi. No, ogni volta che salgo la roba di scale al buio, che non c'è luce, è chiaro. Raccontaci. Dai piedi. Allora, se c'era un gradino sì, una no, una mattonella sì, una no. Ogni volta che salivo la spesa, non durava a capo a terra. Ogni tanto per le scale e trovava qualcuno. Ah, sentite, poi dice, vabbè, rotolando, ma andavo toccando. Dove? Un altro, bella giaga, ma vista, lui, intanto ce la ti ha raccontato, ci ha fatto per tutto il pelo. L'imbirico era. Non va a smettere di fare, di prendere parte del cortisone, le sta nascendo le orecchie come i coltri, tutte veloci. Dovio, non ridere, mica si te con la paura, oi oi oi. E che la faccia che deve fare a paura. Facciamo conoscere Antonio Grodde. Non entra più in radio, mi si dice che ha visto il microfono. E non ti fa paura, no? Hai paura? È un amico nostro, proiettatore. Ah, tutti i nuovi innaffiatori si sono attaccati. Qua mi si allaga, adoro la macchina. Ecco perché c'ho la macchina sempre bagnata la mattina. Metto il fiorino davanti all'innaffiatore, brutto stronzo. Se lui ti stringe la mano non c'è bisogno di andare neanche dall'ortopedico. Dai, subito. Una. Io ci chiamo il cognome. Cognome pure, quindi il nome è una garanzia. Un cognome è adeguato perché lui è 2 metri per 1,50, si assomiglia proprio a un baule. Fa di l'orgino. Ed è iettatore. Ok. Quando io lo vedo cambia strada, tutte le volte che lo vedo mi succede qualcosa. Mi ha detto già fatto la proaca. La proaca l'ha fatto di tutti i colori. Oh, guarda, di tutti i colori, di tutto di più, madonna. Ma è una cosa che la ma lasciamo ieri con l'uomo, guarda, lascia parte di scherzi. Come immagini un elemento del genere in associazione, stai pur certo che anche i santi del paradiso vengono ad associarsi, molti parole. Tu Antonio Valchè, per la creazione dell'ala nuova di Ghirivani, come ti ha detto bella ne farà per tutta l'impalcatura. Ci vuole la scuderia a mettere per i cavalli, porta così, che te vai a un raio. Non invidio, passa via, ho un amico di Gigino, che sia l'ascolto, glielo dico. Un amico di Gigino, un camionista, si è comprato un camion nuovo, è andato a ritirarlo, ma qualche rogami, già con la centralina e fasciata, la compagnia Doedo. Ti accompagno io, non ti preoccupare. E andiamo giù, sono andati. È andato a ritirare il camion, ciao a tutti, bello mi, bello è, bello anche, bello è, complimenti, la casa ha fatto proprio un affare, bello mi. Alla pure moto non partire un gano, ti fate a portare la sassa che lo gara a te. Antonio, però, mi auguro che non lo incontri mai, se no finita che la cappotta della macchina becchi i camionetti. Già sto toccando le gemelle. Oh, io sono rivaluto a vedere tutti i segreti, no? E che è andato a basso, e boh. C'è sempre nessuno, tanto poi quando ci vediamo ti dico che io ce la conosci, non ce n'è per nessuno, nulla, io penso che in Italia non ci siano gli attori così, che persona sfigata, qua te ne dico una, però te ne dico più se non te ne sepisce, tu immaginate che ha trovato nella strada un suo amico con una gomma bucata, cioè questo ha forato e si è se ne scelgo, se ne viene, la gente no, mi va bene, ti attendo una mano io, perché è molto, la verità, si butta tutto, meglio che non tocchi niente. A me se un goffo non può bucare la scorta della bucata bruguita, e quello ha giurato che era gonfia il giorno prima. Lui, tu carriere. Mercadio. Eia, buonasera. Mi ha sorientato, l'artistica. Non ti stai andando a fattare Giulia, eh? Ecco, c'è l'artistica, mandicare. Stasera. Ciao a tu, ciao a Falchetto. Come mi sono intruscato? Ciao. Ah, una pizza la sono portata a casa anche avanzata, perché ho preso l'antipasto, mi sono andati prima a quello. E una pizza con le cipolle, ma buona, cipolle, sono le cipolle. Immaginati stanotte l'aria della stanza. Leggerina la cosa, mi tonno e cose, cipolle. Oh! Rosso! Non è così pesante, no? Boh. Oh, scusate se ogni tanto è già mezzanotte, già non c'è le bambine all'ascolto. Qualche cosettina. Stiamo un po' scaffiando, come si dice, sassaresse. Cesso. E se non gli date un peschereccio, qualche. Ma io lo conosco davvero. Eia, è un politico, ma ne abbiamo parlato stasera, no? No, già te lo dico di persona, diciamo. Se qualcuno ha tanto fa la battuta, però non va bene, si è vero. Magari ascolti qualcuno del suo paese. Stavo tenendo un peschereccio. Quando hanno trovato lui, era d'estate, era a Tettino, ma non sto scherzando, ci sono cose vere, lui ha sentito in barca, ed era a Siviglia fuori, era quasi alla punta, sai, perché negli anni passati erano tutti lì, verso la punta Scorno, verso c'era l'Oliva, insomma, con la prua verso Tintino, ed era ancora all'Isola Biana, però a pacchi pure, è passata la motovedetta dei carabinieri, la guardia costiera usciva poco, dei carabinieri, ma questa mi ha raccontato col comandante, la motovedetta, che c'è in pensione. E siccome lui non poteva stare, gli ha detto di spostarsi, di cercare di rientrare qualche miglio all'interno dell'isola Piana. Non c'è problema, quelli hanno abbassato i motori per parlare con lui. Si è avvicinata, che documenti, come si fanno, ma il controllo ha detto di allontanarsi un miglio all'interno dell'isola Piana. Come gli ha stretto la mano, va bene, ok, grazie, arrivederci. I sottolati di motore a motovetta hanno fatto da più, mi pare ci dovrebbe chiamare Vincente a portarla in porto. Falchetto e anche a Luca, buon proseguimento e ci sentiamo le prossime, dai. No, io ti saluto, ti abbraccio calorosamente, a te, a Antonio Falchetto, a Luca, però spengo anche io per mezzanotte 10, non disturbo qua perché è tutto chiuso, è già tardi, sono con la navigante al buco, che vuole bauli a vero a Pisamini, Via, vai, dai, con 144, ciao Luca, ciao Cronne, e ciao anche a te Claudio, dai, ci si aggiorna domani, ciao, buonanotte. Ciao, ciao a tutti, buonanotte a tutti e ci sentiamo domani, dai. Niente, ciao a tutti, buonanotte, mi raccomando, che roba uni. Ciao, ciao Falchetto, ciao Antonio Gorde, buonanotte e a domani, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao, ciao. Prendere i chitta. Oh, se ce la facevi, quella cosa mi avevi detto di prendere i chitta. Prendere vita. Oh, a Luca sto dicendo, se gentilmente mi poteva passare per telefono quelli qui. Quelli qui, ok. Sì, no. Via, ma diciamo che sia 169, 170, ho già trovato passo domani, dai. Col conno? Sì, allora col conno senza. Siamo tutti in bagheri. Siamo in urti. Via, rilasci. Ciao, ciao ragazzi, buonanotte. Au.